Dunque, prima di tutto vorrei ringraziare, perché non vorrei dimenticarmi, ringraziare le autorità, l'ho già fatto ieri e lo ripeto adesso, e in questo momento però mi premerebbe ringraziare soprattutto i relatori, i moderatori delle varie sedute e coloro che sono stati presenti, e direi insomma una presenza al di là di ogni aspettativa, almeno da parte nostra. Per quello che riguarda le conclusioni, penserei che sarebbe stato opportuno le avesse fatte un teologo, perché c'è il pericolo che la mia forma mentis filosofica deformi un po' le cose che ho recepito. Comunque farò del mio meglio, probabilmente ai teologi potrà essere anche utile sentire le deformazioni che può fare un filosofo nel recepire le loro precisazioni. Prima di tutto direi però che credo che sia un evento importante il fatto che si sia discusso della teologia di Rosmini e se ne sia discusso in totale libertà. Cioè, chi accettava, si accettava quello che si riteneva giusto accettare senza preclusioni. Questo credo che sia un passo molto importante perché insomma, come loro sanno, la teologia di Rosmini ha avuto una storia molto tormentata, cioè tutto il pensiero, ma in particolare alcune affermazioni di carattere teologico di Rosmini hanno avuto una storia molto tormentata, che adesso se ne sia potuto parlare con tanta libertà credo che sia una cosa molto importante. E un altro aspetto che sottolineerei è stato anche il fatto che non si sia parlato del senso così ristretto, chiuso, del pensiero teologico dei Rosmini, ma lo si sia messo in rapporto con altri, con tutta la storia della teologia in sostanza, e questo penso possa creare degli stimoli positivi per la comprensione del pensiero di Rosmini e possa anche dare luce per chiarire certi problemi. Passerò brevissimamente in rassegna le varie relazioni per sottolineare quello che ha colpito a me. La prima relazione sicuramente è stata una relazione molto ricca, che ha messo in luce i tratti fondamentali di quello che viene definito l'ethos del postmoderno, ma in qualche maniera era già un invito a fare, uno stimolo a raffrontare la prospettiva di Rosmini con le prospettive attuali, e già si accennavano a temi che poi sono ritornati costantemente: il rapporto interpersonale, l'uomo come immagine di Dio, che è un tema fondamentale anche per capire meglio, per lumeggiare il rapporto tra natura e soprannatura e il problema del soprannaturale. Il professor Menke nella seconda relazione, direi più che partire da Rosmini per vedere in lui un anticipatore, ha posto, come affermava il professore stesso, una domanda che è una domanda fondamentale della teologia attuale, quella sull'unicità di Cristo, a Rosmini, l'ha risolta nella prospettiva del Rosmini, ma ancora una volta è tornato il tema dell'essere per l'altro, del dare, del dono di Cristo come colui che si è costitutivamente donato, che è un unico, ma anche perché è colui che si è donato assolutamente e per sempre. Quindi una tematica, direi, che fino a qualche decennio fa sembrava una tematica che in Rosmini non avesse importanza, non avesse un futuro, e invece giustamente anche sotto la spinta del pensiero contemporaneo, quindi anche della teologia contemporanea, è ritornata di attualità. E la relazione del professor Fulcheller ha sottolineato il rapporto tra Rosmini e Maréchal. Anche Maréchal, come loro sapranno, i libri di Maréchal hanno avuto delle vicende con i censori ecclesiastici, e direi che forse è difficilmente valutabile, anche difficilmente esagerabile, l'importanza che padre Maréchal ha avuto nella filosofia, così diciamo, scolastica, ma anche non soltanto scolastica, ma anche quindi anche sulla teologia contemporanea. Aver sottolineato questo rapporto credo che sia stato molto importante, e lo si è fatto con molta precisione e con molta attenzione. Un altro tema che vede Rosmini anticipatore è quello dell'Auditus Fidei, che è stato sottolineato dal professor Ferraresi, sapranno, è il libro direi classico di Rahner, Uditori della parola. E poi questa è una tematica che, per esempio, ha avuto uno svolgimento molto profondo in un pensatore che riguardava appunto la tematica della filosofia della religione, come Italo Mancini. Quindi è superfluo sottolinearne l'importanza. E il professor Staglianò ha fatto un po' nascere un bel paio di così, ma che io credo abbia un significato profondamente positivo. Direi che le affermazioni del professor Staglianò sono state molto acute e molto provocatorie, questo in senso molto positivo. Quindi la sua relazione, direi, mi ha trovato molto soddisfatto, e perciò io così sottolineerei chiaramente il tema che è emerso in maniera più chiara, cioè quello del rapporto tra filosofia, teologia, fede e ragione, per usare i termini tradizionali. E io ritengo, insomma, se devo essere sincero, le affermazioni così del professor Staglianò subito anche a me sono sembrate un pugno nello stomaco. Poi, riflettendoci, invece, ho pensato che erano una provocazione molto intelligente e molto positiva, e quindi anche molto proficua. Il professor Conigliaro ha invece messo in luce il rapporto tra Rosmini e la Nouvelle Théologie, e quindi sostanzialmente il rapporto tra Rosmini e il cardinale de Lubac. Direi che io trovo che è un aspetto della genialità di Rosmini quella di aver, anche in queste discussioni qua tra noi, di aver fatto rivivere, ridato vigore a certi temi che sembravano un po' quasi ormai scontati, come quello del rapporto tra ragione e fede, rapporto tra natura e soprannatura. Ebbene, direi che il professor Conigliaro ha messo in luce bene le consonanze tra i due, ma anche le differenze. Direi che questo rapporto, anche un po', se vogliamo, rapporto scontro, quindi rapporto differenza, può essere molto illuminante. Padre Tiet, da par suo, ha ricordato l'importanza, la centralità della figura di Cristo in Rosmini, e direi che raramente mi è capitato di sentire una relazione così completa e anche così suggestiva, cioè è riuscito a mettere in luce molti aspetti, la centralità di Cristo come persona, il rapporto con la sapienza, il rapporto di Cristo con l'anima, e quindi anche l'analogia con l'unione ipostatica, tutti aspetti evidentemente molto importanti. E direi anche molto bella, come del resto le altre, è stata la relazione del professor Coda sul tema della Trinità in Rosmini. E quello che mi ha colpito in questa relazione è stata la sottolineatura che in Rosmini c'è un po' il congiungersi, credo che sia un aspetto da approfondire, dell'istanza classica con l'istanza moderna, cioè della tematica dell'essere con la tematica della soggettività. Forse questo è stato poco sottolineato, perlomeno si è visto, e quando Rosmini così parla di questi due aspetti come un accostamento, ma io invece ritengo che uno dei punti di grandezza di Rosmini sia proprio essere riuscito a far nascere una saldatura tra i due aspetti. E quindi credo che sia un aspetto molto importante da tenere molto presente. Uno degli aspetti che più mi hanno sempre affascinato è la concezione rosminiana della grazia, che è un tema che pervade la grande antropologia soprannaturale, piena di suggestioni straordinarie. E questo è stato un tema trattato dal professor Colzani, che ha messo in luce anche quelli che egli ritiene i limiti, ma anche quelli che ritiene i meriti, e credo che questa relazione sia stata un po' un modello di questo senso di libertà nel modo di trattare la tematica teologica rosminiana. Il professor Sanna invece si è occupato del tema del peccato originale, come sanno, un tema molto complesso, con la distinzione rosminiana tra volontarietà della colpa e libertà della colpa. E direi che il professor Sanna è riuscito a far fruttificare questi accenni dei Rosmini anche per una comprensione più attuale del tema del peccato originale, e anche vedere nella tematica del Rosmini una critica al perfettismo. Loro sanno che la critica al perfettismo è uno dei temi, una delle istanze presenti nel Rosmini. Il professor Piazza invece ha parlato dell'escatologia. Direi che insomma, noi, almeno alcuni di noi vengono da un convegno su Bonhoeffer tenuto qualche settimana fa, dove il tema dell'escatologia è stato centrale. Quindi direi che ricordare questo tema mi sembra molto importante. Il professor Nicoletti, concludendo la sua relazione, ha accennato a Bonhoeffer. Direi che io, se così, ero convinto, anzi mi è stata proposta una domanda: che rapporto ci può essere tra Bonhoeffer e la teodicea di Rosmini? Subito sono rimasto un po' così sorpreso, poi riflettendoci invece io ritengo che un rapporto ci sia, per esempio questa istanza del millenarismo, insomma del millenarismo intero, in un certo senso sicuramente è un qualcosa che può avere, dare degli spunti per avvicinare i due, cioè in fondo l'importanza anche, insomma, che ci sia una manifestazione della giustizia divina, sia pure sottolineando poi anche la debolezza e il limite dell'uomo, anche una manifestazione qua giù, credo che sia molto importante. Quindi la tematica dell'escatologia in tutte le sue sfumature credo che andrebbe approfondita, e questa relazione è un primo invito, è un primo spunto, e dà i primi spunti per ottenere questo approfondimento. Il professor Russo si è occupato della ecclesiologia generale di Rosmini, anche qui gli spunti sarebbero infiniti, per esempio il rapporto verità-amore, la preminenza che viene data tante volte alla verità, disconoscendo invece la fondamentalità dell'amore, invece l'importanza della sapienza, la diversità all'interno della Chiesa, quindi l'importanza data al laicato, il vissuto ecclesiale in Rosmini che non riesce ad esplicitarsi perché insomma un vissuto di straordinaria intensità è per la santità di Rosmini e per le vicende che ha dovuto vivere. Il professor Dianic direi che ci ha fatto capire quanta complessità ci sia sotto un'affermazione come quella che la carità è il fondamento della Chiesa. Il professor Dianici era intimorito per il fatto che lui non aveva studiato Rosmini, quindi temeva di essere un po' un intruso. Io ritengo invece che il suo contributo sia di fondamentale importanza proprio per partire, una volta approfondito queste sue proposte, alla lettura di Rosmini, perché direi che uno degli scopi fondamentali dei nostri convegni è proprio questo interscambio, cioè instaurare questo dialogo. E questo dialogo può essere approfondito dalla lettura molto intelligente, molto acuta, che il professor Renner ha fatto delle cinque piaghe della Chiesa. Mi sono piaciute particolarmente gli approfondimenti che lui ha fatto dell'aspetto della profezia della Chiesa e anche evidentemente di accenni, qualche volta espliciti ma molte volte impliciti, all'attualità. E non meno affascinante è stata la lettura, anzi direi che dal punto di vista soggettivo mio è uno dei temi più affascinanti, quello della carità, e questa lettura che il professor Lorizio ha fatto di questa, sul tema della ricerca della verità e metafisica della carità nei vari tre stadi, sottolineando l'importanza, la centralità essenziale dell'amore in Rosmini, credo che sia, insomma, uno dei temi che sono sempre stati presenti in qualche maniera un po' in tutte le relazioni, e quindi che sia venuto così a tema è stato particolarmente importante. E vorrei concludere con le relazioni di questa sera, che loro hanno ascoltato, quindi non c'è bisogno di sottolinearne l'importanza. Per esempio, per quello che riguarda la relazione del professor Autiero, ho trovato particolarmente suggestive le sue notazioni sul rapporto tra legge, morale, autonomia, libertà, cioè che Dio tramite la legge stimola la libertà e l'autonomia, non la opprime. Poi il rapporto tra bene morale, bene eudemonologico, che indica il senso di concretezza che è sempre tipico di Rosmini. Cioè, Rosmini, ci sono degli slanci speculativi straordinari, però in lui c'è sempre anche un senso profondo di concretezza, segno proprio anche dell'armonia di una personalità. E per quello che riguarda il professor Nicoletti ne ho già accennato, però ancora una volta vorrei sottolineare l'importanza da lui messa in luce del tema del male, che come lui egli stesso sottolineava è stato un tema che più volte è ritornato, che è un tema centrale in Rosmini. Se si leggono certe opere di Rosmini, qualche volta si può avere l'impressione che anche per lui, insomma, così, che lì sogni un po' la via rosa, la vita così bella, affascinante. Se si legge la Teodicea ci si accorge di quanta profonda fosse in lui l'esperienza del male e quanto lo tormentasse questo tema e poi il tema appunto della libertà, la permissione del male per rispettare la libertà dell'uomo, e questo assentarsi di Dio che, insomma, ricorda, se vogliono, sì, alcune affermazioni di Kierkegaard, Dio che ritrae la sua onnipotenza per lasciare libero l'uomo, ma se mi permettono ancora così il ricordo di Bonhoeffer, anche certi temi tipicamente bonhoefferiani, e poi con la conclusione di questo millenarismo che sicuramente può darsi, come così il professor Roger accennava, fosse legato alla situazione storica, però se si pensa bene potrebbe anche essere fonte di molte suggestioni. Grazie infinite, scusate la miseria del mio rilievi, c'è un mare magnum, ma insomma ho dato il mio contributo perlomeno così di entusiasmo. Grazie a tutti. Allora, grazie. Grazie a lei.